Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Elezioni americane in bilico, Biden avanti nel conteggio, ma negli stati ancora incerti, non assegnati, Trump è in vantaggio. Il capo della Casa Bianca infatti annuncia vittoria, il nostro successo è stato sospeso, è in atto una frode, contesta il conteggio dei voti postali. Replica Biden, parole scandalose, bisogna contare ogni scheda, pronti a dare battaglia legale. Firmato il DPCM, via alle nuove misure anti-Covid con un sistema a chiusure differenziate in base al rischio. Domani l'ultimo saluto a Gigi Proietti, funerali in forma ristretta saranno però trasmessi dalla RAI a Roma, lutto cittadino. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. In primo piano naturalmente l'esito del voto americano, un esito ancora molto molto incerto per via degli stati in bilico dove si sta ultimando il conteggio delle schede, ma per avere l'esito definitivo, vista la complessità del sistema elettorale americano, con anche i voti postali, potrebbero volerci giorni. In fiamma intanto la battaglia politica con Trump che annuncia una vittoria sospesa, evoca il ricorso alla Corte Suprema. Biden invece definisce queste parole scandalose e col suo staff attende il conteggio fino all'ultima scheda. Sono gli stati in bilico che consegneranno il nome del nuovo presidente degli Stati Uniti e l'attesa si preannuncia lunga. Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan e Wisconsin, Trump deve vincere in almeno 4 di questi stati. Per ora è in testa in tutti e 5, ma manca il voto per posta, che solitamente favorisce i democratici e potrebbe ribaltare la situazione. A Joe Biden potrebbe bastare invece vincerne 3, se uno è il Wisconsin, per raggiungere quota 270 voti elettorali. L'incertezza del voto si concentra dunque nel Midwest, area delle periferie operaie, che fu decisiva nel 2016 per l'elezione di Trump. Lo scrutinio postale è parecchio indietro. In Pennsylvania, ad esempio, mancano ancora 300.000 voti per posta. In Wisconsin sono state scrutinate il 95% delle sezioni e i due candidati sono di fatto testa a testa. Si attende dunque il voto per posta. In Michigan si aspetta lo spoglio di moltissimi voti, in particolare si potrebbe arrivare fino a venerdì per avere un dato certo. Anche in Georgia la situazione è ancora indefinita e il conteggio riprenderà solo alle 8 del mattino, le 14 in Italia. Per ora, in questo stato tradizionalmente conservatore, Biden è dato in ripresa. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dalle prime analisi sulla mobilità elettorale effettuate dai sondaggisti americani emerge che Trump ha perso qualche punto nel suo elettorato di riferimento, mentre ha guadagnato tra ispanici e afroamericani. Joe Biden è salito invece tra gli elettori bianchi degli stati in bilico. L'affluenza invece è il dato che colpisce perché è la più alta da oltre un secolo. Mai così tanti americani sono andati a votare. Le lunghe file ai seggi e soprattutto le schede depositate con il voto in anticipo portano l'affluenza nelle urne a un record. Secondo lo US Electoral Project dell'Università della Florida, oltre 101 milioni di americani hanno già votato prima dell'Election Day, di cui oltre 60 milioni per posta. 4 anni fa votarono complessivamente 139 milioni di americani, il 59,2% della popolazione che aveva i requisiti per votare. Tradizionalmente in America l'alta affluenza non è facilitata dal fatto che per esprimere la propria preferenza è sempre necessario essersi prima registrati volontariamente presso le liste elettorali. Dagli anni 20, quando è stato introdotto questo registro degli elettori, non si è mai superata la soglia del 60%. E quest'anno c'era un ostacolo in più rappresentato dalla pandemia che poteva scoraggiare molti ad andare a votare fisicamente, ma che ha spinto tantissimi a votare via posta. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parleremo ancora del voto americano nella seconda parte di Effetto Giorno, vedremo se ci sono degli aggiornamenti, dato che, come vi abbiamo già raccontato, lo spoglio procede di minuto in minuto. Adesso invece veniamo in Italia. Firmato dal Premier Giuseppe Conte nella notte, il nuovo DPCM con le misure anti-Covid entrerà in vigore da domani. Coprifuoco nazionale dalle 22 di sera fino alle 5 del mattino. Chiusure differenziate però da regione a regione a seconda delle fasce di rischio che verranno individuate, saranno assegnate nelle prossime ore. Rispetto alla bozza di ieri pomeriggio, nonostante le pressioni delle regioni, c'è una sola novità. I parrucchieri resteranno aperti anche nelle cosiddette regioni rosse. Nel nuovo DPCM, infatti, si istituiscono tre fasce di rischio: verde, arancione e rossa. Nelle regioni a rischio più elevato per almeno 2 settimane scatterà il lockdown. Ci si potrà spostare solo per comprovate ragioni e accompagnare i figli a scuola in presenza fino alla prima media e con obbligo di mascherina anche al banco. Stop a bar, ristoranti, pasticcerie e a tutti i negozi che non vendono beni essenziali. Stop anche alla mobilità da e per le regioni a rischio. In tutta Italia coprifuoco dalle 22 alle 5 e didattica a distanza per le superiori, estensione al massimo dello smart working, chiusi bar, ristoranti e pasticcerie anche nelle zone arancioni e in generale musei e sale bingo. Sospesi i concorsi pubblici, anche quello della scuola, anche se oggi le prove si stanno svolgendo regolarmente. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come sentivamo, si conoscerà oggi l'elenco delle regioni, quelle rosse e quelle arancioni. La decisione, come detto, in base a 21 parametri di sensibilità del sistema sanitario e della diffusione dell'epidemia nelle varie regioni, dati monitorati giorno per giorno. Quasi una replica in autunno del lockdown di primavera per le zone rosse. L'ulteriore stretta divide infatti l'Italia in 3 fasce di rischio, cosiddetta verde se moderato, arancione se alto per meno di 3 settimane, rossa se si va oltre, ma non si sa ancora quali regioni finiranno nelle 2 fasce gialle e rossa e i governatori chiedono i numeri e di poter essere coinvolti dalla cabina di regia, come ha garantito il governo. Si tratta infatti di un meccanismo automatico, uno dei parametri tenuti in considerazione è l'indice di contagio RT regione per regione, ma ci sono altri criteri in base al profilo di ciascuna regione fornito dal monitoraggio settimanale dell'ISS, basato in totale su 21 indicatori come contact tracing, tasso di occupazione di posti letto. Nella fascia cosiddetta rossa si possono contare, secondo le ipotesi, Lombardia, Piemonte, Calabria e anche Bolzano e Valle d'Aosta con Campania in bilico. Qui il lockdown è di fatto vietato spostarsi non solo dalla regione e dal comune, ma anche da casa, se non per motivi di necessità, salute e lavoro e per accompagnare i figli a scuola. Si ipotizza fascia arancione per Liguria e Puglia, con Veneto e Sicilia in bilico. Si può uscire da casa e non si possono varcare i confini regionali e comunali. Nelle regioni restanti, soprattutto in centro Italia, fortemente raccomandato non spostarsi e non verso quelle a rischio. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E allora, come detto, ancora un'attesa per oggi per conoscere quali regioni saranno nella fascia rossa, in quella arancione o in quella verde. Il governo lavora anche a un decreto con aiuti e ristori alle categorie economiche ulteriormente danneggiate, come potete capire, da queste nuove restrizioni in arrivo. A pochi giorni dal primo decreto ristori, 6,8 miliardi per le categorie danneggiate dal DPCM del 24 ottobre, un nuovo decreto legge, assicura il governo, sarà approvato questa settimana, forse già domani. L'obiettivo sono contributi aggiuntivi per le categorie che subiranno una stretta ancora più forte, come i centri commerciali nel weekend in tutta Italia, bar, ristoranti e locali chiusi anche a pranzo in zona arancione e rossa, negozi non essenziali e attività sportive in zona rossa. Il decreto ristori bis avrà al massimo 1,8 miliardi per contributi, sospensione IMU, cassa integrazione e le altre misure già previste. Per altre risorse necessarie in base a quante regioni e per quanto tempo finiranno in zona arancione rossa servirà un nuovo scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora andiamo con la cronaca. Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato accoltellato nella tarda serata di ieri al corso Umberto I in pieno centro a Casalnuovo in provincia di Napoli. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, si trovava con un amico di 18 anni, i due sono stati avvicinati da 3 persone che li avrebbero aggrediti. E torniamo sulla rapina. Ieri a Milano in pieno centro, clamorosa beffa, i banditi sono riusciti a fuggire dalle fogne. Continua a Milano la caccia alla banda del buco che ieri è stata protagonista di una rapina da film in pieno stile Casa di Carta in una filiale del Crédit Agricole tra Piazza Ascoli e Via Stoppani. Un colpo in cui non c'era niente di improvvisato, preparato a tavolino per analizzare i sotterranei della zona e studiare il reticolato delle fogne da cui accedere alla banca. E poi il buco finale, quegli ultimi 2,5 metri scavati un pezzo alla volta per entrare direttamente nella banca. I rapinatori, almeno 6, di cui 2 armati e con una maschera sul volto, hanno agito rapidamente all'orario di apertura della banca. Sarebbe stato un colpo perfetto, ma un imprevisto ne ha pregiudicato l'esito. Sentendo le urla del direttore, infatti, una delle 2 dipendenti in filiale è riuscita a scappare e a dare l'allarme, costringendo la banda ad un cambio di programma e a fuggire dalle stesse fogne da cui erano arrivati. Per accelerare i tempi hanno potuto arraffare solo una 20 di cassette di sicurezza di cui non è stato ancora quantificato il valore. Salvi gli ostaggi. Gli agenti hanno tentato di seguire i rapinatori nelle fogne, ma è stato tutto inutile. Ora la caccia continua mentre la Procura di Milano ha aperto un'indagine. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Primo rapporto del Ministero dei Trasporti a proposito della logistica anche nel periodo della crisi e della pandemia. Il comparto cresce ben più del prodotto interno lordo anche durante questo periodo di crisi. Sentiamo. Il comparto della logistica tiene anche in tempo di pandemia. Nei primi 6 mesi del 2020 il traffico delle merci è calato, ma decisamente meno rispetto a quello dei passeggeri. I transiti dei TIR su strade ed autostrade sono diminuiti mediamente del 18,8%, a 12,3% ammonta la riduzione delle merci che hanno viaggiato in treno. Questo a fronte di un crollo generalizzato del trasporto di persone. Un dato su tutti, nei primi 6 mesi dell'anno l'alta velocità ha perso l'81,4% dei passeggeri. Numeri e percentuali che arrivano dal primo rapporto periodico elaborato dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, rapporto che fornisce anche un dato significativo sulla vitalità del comparto. Tra il 2009 e il 2019, a fronte di un aumento modesto del PIL, più 2,4%, tutte le modalità di trasporto hanno fatto segnare progressi decisamente superiori. In particolare il cargo aereo, più 21,5%, le navi RoRo più 15,8%, sui treni il traffico passeggeri è aumentato dell'8,9%. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Domani a Roma i funerali di Gigi Proietti. Nel rispetto delle norme attuali di sicurezza saranno in forma ristretta, la RAI però seguirà l'evento con una diretta. Roma si prepara a dare l'ultimo saluto a Gigi Proietti. I funerali si terranno domattina nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. La cerimonia si svolgerà in forma privata, ma sarà trasmessa in diretta televisiva dalla RAI per dare modo a tutti, anche in tempi di restrizioni per la pandemia, di partecipare, anche se a distanza, all'addio al celebre attore, morto lunedì nel giorno del suo 80° compleanno. Il corteo funebre dovrebbe attraversare Villa Borghese e passare davanti al Globe Theatre, il teatro elisabettiano del quale per anni Proietti aveva gestito la direzione artistica, che ora, per decisione del Campidoglio, gli sarà intitolato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. 13:13 dopo la sintesi della giornata, facciamo un break e poi torniamo tra poco con Effetto Giorno, tutte le altre notizie. Ripartiremo da una analisi in tempo reale del voto americano con le ultime notizie che arrivano anche dalle due coste, quindi diciamo dagli stati in bilico, che ve lo ricordo sono in particolare il Wisconsin, il Michigan, la Pennsylvania, il North Carolina, in parte anche la Georgia e forse il Nevada. Sarà con noi Giulia Crivelli a tra poco. 349-238-6666. Effetto Giorno. Ecco le notizie di oggi. Elezioni americane in bilico, Biden avanti nel conteggio ma negli stati incerti Trump è in vantaggio. Il capo della Casa Bianca annuncia infatti vittoria. Il nostro successo è stato sospeso, in atto una frode, replica Biden, parole scandalose, bisogna contare ogni scheda. Firmato il DPCM, via le nuove misure anti-Covid con un sistema a chiusure differenziate in base al rischio. A breve si conoscerà l'elenco delle regioni rosse. Elezioni americane 2020. Sfida per la Casa Bianca. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. E allora, nonostante le parole di Donald Trump, in realtà l'esito di queste elezioni è ancora appeso. Si stanno ancora contando voti, non c'è ancora un esito definitivo, addirittura secondo alcuni analisti potrebbe volerci qualche giorno. Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. Allora, adesso poi ci colleghiamo anche con il nostro inviato a Washington, Riccardo Barlame, per le ultime notizie. Prima però cerchiamo di dare un quadro di questa, lo sapevamo che sarebbe stata una elezione incerta, come è successo anche in passato. È complicato dal fatto che il sistema elettorale americano per noi è sostanzialmente ignoto, almeno in una serie di aspetti. Facciamo un punto. Allora, intanto ricordiamo che si vota per scegliere il nuovo presidente, il 46esimo presidente, un terzo del Senato, che in questo momento è controllato dal Partito Repubblicano, e si rinnova completamente la Camera dei Rappresentanti. E poi ci sono, abbiamo qui tra l'altro sopra di noi l'aggiornamento della CNN, e poi ci sono stati anche molti voti per quelli che da noi sarebbero referendum o confermativi o abrogativi. Forse il tuo telefono che ha un audio, no? Non ah, è, oddio, è il mio? No, ah sì, no, scusate, ce l'avevo qui reale, per questa, non so per cosa. Questa ansia di sentire appunto gli aggiornamenti. Comunque in questo momento ci sono ancora, come dicevi tu Alessio, degli stati in bilico. Perché sono in bilico? Non tanto perché non sono stati contati i voti, quelli proprio messi dentro all'urna ieri, ma perché manca il conteggio di quelli arrivati per posta. Ma si stanno già conteggiando anche quelli arrivati per posta, per esempio in questi quattro sì, stati? Sì, si stanno tutti conteggiando, okay. Però siccome, come abbiamo detto nei giorni scorsi, sono stati molti di più che in passato, ci vuole del tempo. Come avete sentito, Donald Trump, che è stato secondo me un po' spiazzato dalla decisione che stamattina Simone Spezia è riuscito proprio a dare in diretta, erano le 6:30 nostre, quindi mezzanotte e mezza negli Stati Uniti. Joe Biden ha semplicemente fatto un brevissimo intervento dicendo abbiate tutti pazienza, forse questo ha spiazzato un pochino Donald Trump, che immediatamente ha twittato noi invece pensiamo che la vittoria sia nostra, e poi ha fatto un intervento dove ha detto che si cerca che i nemici naturalmente della sua presidenza cercheranno di strappargli questa vittoria, ma che la vittoria è già cosa certa. E non è così, perché il dato di questa elezione, essendo un'elezione in tempi di pandemia, è proprio di un'affluenza superiore al solito e poi di questa enorme massa di voti arrivati per posta. Riccardo Barlam, corrispondente del Sole dall'America, inviato a Washington. Ciao Riccardo. Ciao Giulia. Allora, io ho qui davanti a me la cartina, no? La cartina degli Stati Uniti, e come sempre il puzzle che si va componendo è rosso al centro, rosso repubblicano, e blu diciamo sulle ali, le zone dell'est e dell'ovest. Questo è un classico per ogni elezione, più o meno insomma, per ogni elezione presidenziale, perché così un po' si ripartisce il voto negli Stati Uniti. Riccardo, come va componendosi questo puzzle in queste ultime ore? So che si stanno facendo dei conteggi per quanto riguarda il Wisconsin, se non sbaglio è passato in vantaggio forse Biden poco fa, vediamo se... Sì, allora, sì. Quello che si potrebbe dire per riassumere tutta la questione, l'ansia di queste ore, io titolerei così: Stati disuniti d'America, perché quello che viene fuori è proprio questo paese che è diviso in due, è veramente polarizzato attorno a Trump, tra i trampiani e gli antitrampiani. L'antitrampismo, diciamo, ha unificato il fronte democratico come mai prima d'ora, e per fortuna, come è stato ricordato, Biden invita alla prudenza, che è la cosa in questo momento che deve fare per evitare appunto quello che molti temevano, che ci fosse qualche episodio, si potesse verificare qualche episodio ai seggi di violenza, che qualcuno qualche colpo di pistola, e Trump e i suoi non aspettano altro, perché i miliziani armati sono pronti a intervenire in caso di scontri. Trump, diciamo, nelle sue dichiarazioni ha detto questa mattina, oltre ad aver rivendicato la vittoria, ha detto ci stanno rubando le elezioni, sono delle parole eversive, E devo dirvi una cosa, io sono qui a Washington, ieri sono stato lì attorno alla Casa Bianca e di solito la Casa Bianca, la casa degli americani, tu ci puoi stare, ti puoi avvicinare davanti a Pennsylvania Avenue, la vedi a 100 metri. In questo momento, da maggio, la Casa Bianca è circondata da due muraglie, diciamo, enormi di inferriate, e dà proprio l'idea di un fortino africano, dove c'è un capo di Stato che non vuole andare via. Questo è uno scenario terribile per questo paese. Io la mia sensazione è che ci sarà una vittoria ai punti di Biden e che poi ci sarà questa ondata di ricorsi legali di Trump. Trump è famoso perché quando era immobiliarista è fallito 5-6 volte e si è sempre cavata con gli avvocati. E quello che cercherà di fare anche in questi mesi, devo dire, è proprio questa Casa Bianca assediata, questo fortino, cioè, dà un po' l'idea di questa decadenza di questo paese in questa fase, anche della tristezza di questo paese in questo momento. Io però devo dire una cosa, sì, che sono molto fiducioso nella tenuta delle istituzioni democratiche americane, sia della Corte Suprema, nonostante i giudici conservatori, e sia anche dei militari che hanno precisato prima delle elezioni che loro non c'entrano, non vogliono entrarci in questa meglio, storia. Meglio così, assolutamente. Esatto. Quindi... Saluto anche, grazie Ballam, resta in collegamento però, Mario Del Pero, ricercatore dell'ISPI, buongiorno. Buongiorno a voi. Che ci aiuta a leggere la situazione. Prima Giulia però una cosa. Sì, volevo solo citarvi il titolo di USA Today perché è un po' quello che diceva Riccardo, cioè il titolo è A Tense Nation Wonders What's Next, quindi una nazione con un alto tasso di tensione che si chiede che cosa succederà ora. Ci sono queste grandi incognite. Io l'ultima cosa che volevo dire è che fa effetto che comunque sia, Riccardo pensa che ci sarà una vittoria ai punti di Biden. Io credo che sarà il contrario, cioè ci sarà una vittoria ai punti di Trump, ma appunto una vittoria ai punti, quindi è un paese diviso a metà. L'idea che una delle due parti, in questo caso Trump, si intesti lo spirito della nazione, questo fa abbastanza paura, perché non è una vittoria chiara, non è una vittoria netta, e comunque vuol dire che metà del paese avrebbe preferito un'altra soluzione. Questo a me colpisce, i toni di Trump nel dire proprio un po' il ragionamento con me o contro di me. Del Pero, ricercatore associato ISPI, lo ricordo, questa situazione non è nuova, anche guardando al passato è già accaduto che ci fossero elezioni in bilico, la differenza forse sta nell'atteggiamento di Trump, che ha fatto delle dichiarazioni abbastanza, come dire, importanti, parlando di ricorso alla Corte Suprema, già alla vigilia del fatto che non avrebbe riconosciuto il voto postale, eccetera eccetera. Dico io una cosa che per ora nessuno vi ha voluto dire, perché i numeri sono ballerini, però vanno ricordati. Allora, attualmente, secondo, diciamo, i principali siti che stanno analizzando il voto, Biden ha già ottenuto 238 grandi elettori, bisogna raggiungerne 270, e Trump ne ha ottenuti 214. Sugli altri si balla. Del Pero? Sì, allora, le parole di Trump sono gravi, è inutile girarci attorno. Gravi sono i tweet in cui denuncia una frode, il furto, tentativo di rubare il voto. Come ha detto, grave è stato il discorso che ha fatto stamattina, grave, diciamo così, nella sua analfabetismo istituzionale, diciamo così, gravi e contrastanti con una campagna elettorale, quella di Trump e dei repubblicani, per tanti aspetti straordinaria. Se noi andiamo a vedere i numeri della mobilitazione di un bacino elettorale, quello repubblicano, che appariva strutturalmente più limitato, meno espandibile, diciamo così, sì, di quello democratico, se andiamo a vedere i numeri, sono numeri davvero incredibili. In Florida, in Texas, Trump ha preso 1.000.000-1.200.000 voti in più rispetto a 4 anni fa, ha portato alle urne tantissime persone, ha catturato, pare, segmenti del voto che di suo è composito, non è unitario, degli ispanici. Ma Trump ha condotto una campagna elettorale, se vogliamo spregiudicata, ma molto incisiva, straordinariamente energica in queste ultime settimane, e le urne hanno pagato. Stride, diciamo così, il contrasto tra questo successo elettorale, perché di successo elettorale si tratta, questo atteggiamento, diciamo così, che rivela ancora una volta un'inadeguatezza istituzionale di un presidente che nel ruolo non è mai riuscito a crescere. Senta Del Pero una cosa, Riccardo Barlam da Washington parlava della tenuta del sistema democratico americano. Quali sono in questo momento i contrappesi rispetto alla presidente Trump in attesa di una rielezione eventuale? Chi è che decide per esempio sul voto? Allora, il voto è di competenza statale, i vari governi statali possono essere i segretari di Stato di questi stati, può essere in ultima istanza la Corte Suprema di questi stati, ha la voce ultima in capitolo. È chiaro che se poi la partita passa alle corti, il processo potrebbe portarla fino alla Corte Ultima, che è la Corte Suprema, come fu nel 2000 col voto Gore versus Bush. In caso di vittoria di Trump, i contrappesi sarebbero deboli. Resterebbe la Camera dei rappresentanti in mano democratica, in un sistema federale resterebbero i tanti stati e le tante municipalità controllate dai democratici, che in questi anni peraltro hanno contrastato spesso con efficacia le politiche federali e l'azione del governo federale. Però se c'è un ambito nel quale Trump è stato straordinariamente incisivo e capace in questi quasi 4 anni di presidenza è la nomina di giudici conservatori. La Corte Suprema, le Corti d'Appello, le Corti distrettuali, Corti d'Appello e Corte Suprema hanno nominato più giudici Trump in 3 anni e mezzo di Obama in 2 mandati, tanto per intenderci. Quindi abbiamo un sistema giudiziario riempito di giudici giovani destinati a rimanere in carica a lungo, molto conservatori. E questo è il primo elemento importante. Il secondo elemento importante, questa è quasi una certezza del voto di ieri invece, che il Senato rimarrà in mano ai repubblicani, e questo toglie un contropotere eventuale a un'amministrazione Trump e mette lì un contropotere molto forte, potenzialmente costruttivo, per un'eventuale vittoria di Biden. Esattamente. Riccardo Barlam, tu che parlavi di una possibile vittoria ai punti di Biden, come viene letta in queste ore anche questa altissima affluenza, che è un dato molto importante, un'affluenza senza precedenti? Del Pero ricordava che però nei casi del Texas e della Florida ha portato acqua al mulino di Trump. Va detto, ieri sono stato a un seggio elettorale vicino alla Casa Bianca e mi ha colpito perché non c'era nessuno, non c'erano file, e ho chiesto un pochino e loro mi hanno detto: ma hanno votato tutti in anticipo. La storia nuova di queste elezioni è che ci sono stati 105 milioni di voti anticipati, che sono i voti appunto fatti nei seggi prima dell'election day e i voti per posta. Vi cito solo che tutto questo mosaico di leggi che hanno cambiato tutti gli stati per consentire il voto anticipato nell'anno del Covid fa sì che per esempio in California potranno riconsegnare le schede fino al 20 novembre, e quindi per avere un'idea dei risultati definitivi ci vorrà molto. E questo voto anticipato, a detta di tutti, avrebbe favorito i democratici, quindi stiamo a vedere i risultati finali, perché loro hanno puntato dall'inizio, hanno cercato di spingere, mi ricordo i messaggi di Michelle Obama: andate a votare subito, io a New York ascolto le radio black di Brooklyn, e c'è una campagna da mesi, e devo dire ha giocato anche in questo del voto anticipato, hanno giocato un ruolo decisivo in questa fase anche i social network, perché da 2 mesi ogni volta che qui negli Stati Uniti tu entri su Facebook o su Instagram ti dicono: vai a votare. Va detto un'altra cosa rispetto ai sondaggi, anche che l'altro interrogativo di oggi, io sono sempre stato attento in questi mesi a non esaltare troppo i sondaggi, e ricordavo che le interazioni di Trump sui social sono 3 volte quelle che ha avuto Biden. Perché questo però è un classico, perché lui è molto bravo a usarli, soprattutto Facebook, ma anche Twitter, di cui praticamente è quasi il principale utilizzatore. Giulia. Volevo solo riprendere un punto che ha detto il professor Del Pero sui latinos, e questo è un tema molto importante, perché Alexandra Ocasio-Cortez, che è stata la più giovane rappresentante deputata alla Camera ed è stata rieletta, lei è già stata riconfermata, ha subito acceso questo fronte di scontro, cioè ha detto: abbiamo sbagliato, ci siamo molto concentrati sull'elettorato afroamericano, comunque nero, e ci vi intendeva dire, vi siete dimenticati i latinos, che come ha detto il professore, in grande parte in stati dove sono una componente importante come il Texas e la Florida, probabilmente hanno votato per Trump. Poi aspetteremo i flussi elettorali. E l'ultimissima cosa, che per quello che diceva Riccardo e anche il professore, cioè che per i risultati definitivi dovremo aspettare, non si parla più di election night come è sempre, ma di election week. Quindi appunto noi stiamo un po' parlando, ma potremmo essere smentiti su tanti temi. Per chiudere, Del Pero, siamo in quattro, io non mi esprimo perché non ne ho i titoli, però Barlama ha detto vittoria a punti per Biden, Crivelli ha detto vittoria a punti per Trump, lei cosa prevede? Io credo che ci sia un percorso per arrivare, per Biden, per arrivare a 270 elettori. Biden ha vinto anche un collegio in Nebraska e in Maine gli elettori non vanno tutti al vincitore dello Stato, una parte sono attribuiti sulla base dei collegi della Camera, e ha vinto il collegio 2 del Nebraska. Collegio 2 del Nebraska più Arizona, più Wisconsin, più uno tra Georgia e Michigan darebbe questa maggioranza a Biden anche senza la Pennsylvania. E però un Biden che vince 270-268 in questo modo così contestato e controverso apre uno scenario che è spaventevole, ecco, spaventevole. Grazie a Mario Del Pero dell'ISPI, grazie a Riccardo Barlame da Washington e anche naturalmente a te Giulia. Noi ci risentiamo più avanti perché cercheremo di darvi ancora qualche aggiornamento verso le 13.45 e poi faremo anche un po' di effetto mondo, oltre a questo, diciamo, in questo momento ingombrantissimo voto americano. A tra poco. Effetto giorno. Ecco le notizie di oggi, elezioni americane in bilico, Biden avanti nel conteggio, ma negli stati incerti Trump è in vantaggio. Il capo della Casa Bianca intanto annuncia vittoria, il nostro successo è stato sospeso e contesta il conteggio dei voti postali. Replica Biden, parole scandalose, bisogna contare ogni scheda. Firmato il DPCM via le nuove misure anti-Covid con un sistema a chiusure differenziate in base al rischio. A breve si conoscerà l'elenco delle regioni rosse. Il punto di Alberto Orioli. Responsabilità, determinazione, probità. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la leadership più riconoscibile e riconosciuta in questa fase difficile della pandemia e dei confinamenti, oggi ha usato queste tre parole per indicare la strada da seguire in questi momenti drammatici. Probità, dunque, costume morale improntato a schiva e dignitosa onestà, ci dice il dizionario. Serve un profilo più basso, insomma, più parsimonia che vanità, minore protagonismo narcisista, rispetto delle regole. Come tutte le parole che ci rimandano all'idea nobile della retorica da Cicerone a Quintiliano, ha il fascino della desuetudine, ma la forza enorme della saggezza antica, quella che passa indenne drammi e tragedie, che sa lottare contro il destino. E probità diventa così il nostro manignone antipanico, soprattutto se legata a responsabilità e determinazione. Il suo corollario naturale è il compimento delle missioni, lo spirito di servizio, l'attenzione al bene comune. Solo che a guardarsi intorno, dalle baruffe chiozzote sui lockdown tra governo e regioni, alle rodomontate di Trump che si dichiara vincitore senza aver ancora vinto, la probità è rimasta nel libro delle versioni di latino del liceo. Eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Come sapete, con il DPCM firmato nella notte da Conte è stato deciso di differenziare le misure anti-Covid in base ad un coefficiente di rischio in ogni regione, in base a sua volta a 21 criteri. Quali sono questi famosi criteri? Tenendo conto che poco fa Zai ha detto noi non sappiamo ancora la nostra regione come è stata classificata e non lo sa ancora nessuna regione italiana. I 21 criteri li abbiamo un po' raggruppati perché sono, altrimenti sarebbe un elenco troppo noioso. Sono questi: l'accesso ai pronto soccorsi, quanto affollamento c'è, l'occupazione dei letti in ospedale e dei posti in terapia intensiva, quanti posti liberi ci sono, i numeri dei casi positivi, ovvio, i numeri dei focolai, perché più ce ne sono, più l'epidemia è in fase espansiva, l'indice di trasmissione RT che misura la velocità con cui cresce la trasmissione, poi la percentuale dei positivi sui casi testati, più è alta e più l'epidemia sfugge di mano al tracciamento. Poi c'è il criterio del tracciamento dei contatti, se funziona oppure no. Difficile questo però da valutare effettivamente. C'è il criterio del numero dei tracciatori che sono impiegati in ogni regione per contare e risalire ai casi positivi. Un altro criterio è la diagnosi rapida, che anche questo è difficile da valutare oggettivamente. Poi la conoscenza dei dati dei positivi e dei ricoverati, quanto ogni regione conosce e ha delle schede, dei dati sensibili su i casi che ci sono in quella regione. E sembrerebbe questo. Io do il buongiorno e benvenuto a Pierluigi Lopalco, assessore alla sanità della Regione Puglia. Lopalco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Sembrerebbe questo il modello tedesco, si entra o si esce dalle zone di rischio in base a questi parametri. C'è stato accordo tra le regioni su questo modo di procedere, perché abbiamo sentito che c'era qualche contrarietà. Su cosa c'era contrarietà? Ma guardi, io non le posso dire su quali temi ci fosse o non ci fosse accordo. Quello che le dico è che il principio, diciamo, di differenziare delle misure sulla base del rischio è un principio in sostanza valido. D'altro canto, arrivare, diciamo, ad una omogeneità nelle misure è un principio altrettanto valido, per il fatto che comunque se si prende una misura omogenea per tutto il paese, innanzitutto è più semplice da attuare e da comunicare. Secondo, quelle regioni che magari si trovano in una situazione più vantaggiosa dal punto di vista epidemiologico beneficerebbero di più di una misura presa più precocemente. Cioè, il tema è questo, l'epidemia si sta sviluppando in tutto il paese, in alcune regioni è partita un po' prima e quindi si trova in una fase più matura, più avanzata, in altre regioni, tra cui anche la mia, si trova in una fase, diciamo, più vantaggiosa dal punto di vista epidemiologico, però il trend che c'è in tutte le regioni è quello. È questo. Cioè, però senta, Lopalco, per tornare, lei dice giustamente, io non so esattamente se tutte le regioni hanno avuto, diciamo, contrarietà su un punto piuttosto che sull'altro. La conferenza delle regioni la fa il presidente Emiliano, ma immagino che, insomma, qualche notizia le sarà arrivata. Intanto sapete la Puglia come è classificata, perché come mai tutta questa attesa per l'elaborazione di questi parametri? Non sappiamo, sinceramente non sappiamo, e non sappiamo anche perché ci sia questa attesa, visto che i dati noi li comunichiamo costantemente, cioè non c'è un ritardo da parte delle regioni nella trasmissione dei dati. I dati sono lì. Non sarà che c'è qualche parametro un po' complesso, tipo la diagnosi rapida, un parametro oggettivo, o si deve comporre con una relazione, con un'analisi che poi va letta, va capita, è soggettiva? No, guardi, tutti i parametri sono presenti nelle... Tra l'altro, se si utilizza la relazione che è stata condivisa la scorsa settimana, venerdì scorso, i dati sono lì, i parametri sono lì, sono tutti in fila uno dietro l'altro, c'è poco da fare. Sono discutibili, secondo lei? Senta, come parametri non sono discutibili. Un'ultima cosa, tanto ci tocca solo aspettare, poi tra un po' sapremo quale regioni sono arancione, rosse o verde, compresa la sua. Riaprirete le scuole dopo l'applicazione di questo DPCM che non prevede chiusura per le primarie, in nessun caso neanche per le regioni rosse, e voi non dovreste essere regione rossa? No, sicuramente no, non saremo regione rossa. Il DPCM è chiaro, nel momento in cui un DPCM stabilisce che le scuole elementari debbono essere aperte, è lì, è così. Noi, fra l'altro, in questo DPCM non viene concessa alle regioni la capacità, come potevamo far prima, di inserire delle misure più stringenti. Prima le regioni potevano stringere, non potevano allargare, ma potevano stringere. In questo DPCM questa potestà non ci viene più concessa, quindi di fatto le dovrete riaprire. Non abbiamo nessuna flessibilità di azione. Va bene, grazie a professor Lopalco, grazie assessore, nel frattempo lo ricordo, alla sanità nella regione Puglia. 13.46, ripeto, ci sarà da aspettare ancora, arrivare a fine giornata per sapere quali regioni saranno nelle tre fasce, dalla peggiore alla meno grave. Adesso invece tra poco torniamo di nuovo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo, un'occhiata ai risultati delle elezioni americane ancora per vedere se ci sono degli aggiornamenti.